Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sulla storia della benzina. Oggi è difficile immaginare un mondo senza questo combustibile, ma in realtà c'è voluto oltre un secolo di ricerche scientifiche e duro lavoro per trasformarla da un prodotto di scarto alla principale fonte d'energia. Come spiega Amy Jaff, consulente capo per le politiche del Baker Institute, gli americani fanno molto più affidamento sulla benzina rispetto a qualsiasi altro paese del mondo. In Europa e in altre nazioni del mondo si adoperano molto di più i trasporti pubblici. Qui negli Stati Uniti le persone usano la macchina per spostarsi ovunque, quindi se all'improvviso la benzina sparisse dall'universo, gli americani avrebbero non poche difficoltà ad affrontare la vita di ogni giorno. Gli autisti degli Stati Uniti consumano circa 1.400 milioni di litri di benzina ogni giorno. È un business a dir poco enorme. Il motivo per cui la benzina verrà usata ancora a lungo è che produce molta energia. 4 litri generano l'equivalente di 36.000 watt di potenza. Potrebbero far funzionare un televisore per più di un mese. Esistono anche fonti alternative che producono più energia, come l'idrogeno liquido. Ma attualmente la benzina ci dà cose che le altre sorgenti d'energia ancora non sono in grado di fornirci. Dennis Feist, consulente del centro tecnologico Shell. Vogliamo fare in modo che sia poco inquinante, che sia economica, che non crei depositi pericolosi nel motore, né contribuisca a danneggiare il dispositivo di controllo delle emissioni. Ci piacerebbe che fosse sempre disponibile e che avesse il prezzo più basso possibile. Per quanto possa essere basso, il suo prezzo non sarà mai economico. Ma se consideriamo il percorso della benzina prima di entrare nel serbatoio, non è poi così male. Il greggio deve essere individuato, estratto a enormi profondità sotterranee, trasportato per migliaia di chilometri fino alla raffineria, lavorato attraverso costosi sistemi di raffinazione, portato nelle città per mezzo di oleodotti sotterranei, pompato nelle autocisterne e consegnato alle stazioni di servizio. Bufford Lewis, manager Exxon Mobil Corporation. Confrontate il prezzo di un litro di benzina, soprattutto dopo aver detratto le tasse, con quello di un litro d'acqua in bottiglia. La benzina costa circa 27 centesimi al litro, più o meno tolte le tasse. Sfido chiunque a trovare al supermercato un litro d'acqua minerale che costi meno di questa cifra, meno di 27 centesimi. Sicuramente chi imbottiglia l'acqua non vende 1.400 milioni di litri al giorno. La benzina è più economica dell'acqua perché ha una produzione e una distribuzione più efficienti. La raffineria è al centro del sistema produttivo. Le raffinerie sono complessi enormi e costosi che spesso occupano un'area grande quanto 100 campi di calcio. In una sola giornata un grande impianto può trasformare 400.000 barili di greggio in milioni di litri di benzina e di altri prodotti di raffinazione. Nonostante la loro dimensione, il lavoro si svolge su scala molecolare. Il greggio lavorato nella raffineria è composto interamente da idrocarburi, catene di atomi di carbonio di varie lunghezze circondate dall'idrogeno. All'interno della raffineria queste catene di idrocarburi vengono separate nelle cosiddette torri o colonne di frazionamento, elementi caratteristici delle raffinerie. Le fornaci scaldano il petrolio a circa 360 gradi centigradi. Gli idrocarburi in tal modo evaporano dal più corto al più lungo, ad eccezione dei prodotti semisolidi più pesanti. Le molecole di materiali leggeri hanno pochi atomi di carbonio. Ad esempio, il propano ne ha 3. Il butano una catena di 4. Queste molecole arriveranno all'estremità della torre sotto forma gassosa e rimarranno tali anche se ritorneranno alla temperatura normale. La benzina è composta da molecole abbastanza leggere, di 6-10 atomi di carbonio, e se saliranno fin quasi in cima alla colonna prima di condensarsi. Il liquido defluirà attraverso delle tubazioni. Il cherosene, leggermente più pesante, contiene 12-15 atomi di carbonio. Il gasolio si ferma e si condensa subito sotto di esso, avendone dai 15 ai 18. Gli oli lubrificanti, inclusi quelli per i motori, hanno delle catene ancora più lunghe di quelle della benzina o del gasolio. Queste sostanze più pesanti, con 20 o più atomi di carbonio, rimangono sul fondo della torre. Questi materiali, come la paraffina e il catrame, sono in uno stato semisolido e non evaporano mai completamente. Il termine greggio si usa per indicare diversi prodotti. Bufford Lewis, manager Exxon Mobil Corporation. È un percorso a tappe. Si parte da un barile di greggio che ha delle molecole molto semplici, come quelle che usiamo nei nostri grill a gas, fino ad arrivare a molecole molto pesanti come quelle impiegate nel catrame per le strade. La benzina è solo una fase di questa progressione del carbonio. Ma perché nei motori a combustione interna le catene di carbonio della benzina lavorano meglio dei prodotti petroliferi più pesanti o più leggeri? Perché la benzina ha sempre e comunque un'ottima resa. Può essere conservata allo stato liquido e occupa meno spazio di un gas. Ma evapora più facilmente degli altri idrocarburi liquidi. E l'evaporazione è fondamentale nella camera di combustione. Quando spingiamo il pedale, dal serbatoio la benzina viene aspirata nel motore. Si mescola all'aria prima di entrare nella camera di combustione e si trasforma in vapore. Il vapore viene compresso dal pistone che sale nel cilindro e la candela accende la miscela. L'esplosione spinge il pistone in basso, facendo girare l'albero motore collegato all'albero di trasmissione che, grazie alle marce, invia la giusta potenza alle ruote e mantiene costante l'accelerazione. Tuttavia, alcune benzine producono delle prestazioni migliori rispetto ad altre. Ed è questo che determina le variazioni di prezzo. La differenza tra le migliori gamme di benzina, solitamente chiamate Premium, Ultimate o Supreme, e quelle medie o normali, sta nel numero di ottani, da cui dipende la capacità del carburante compresso di non infiammarsi spontaneamente prima che il pistone sia in posizione e la candela si accenda. L'ottano è una molecola a 8 atomi di carbonio presente nella benzina. Sopporta così bene la compressione senza infiammarsi che è stata presa come riferimento. Poi c'è l'eptano, a 7 atomi di carbonio. Comprimendolo appena un po', si infiamma immediatamente. Gli scienziati negli ultimi 20 anni hanno creato una scala, assegnando all'eptano lo 0 e all'ottano il valore 100. Quindi i carburanti sconosciuti sono stati testati confrontandoli con l'ottano o l'eptano puri. Pertanto una benzina con 87 ottani agisce come se contenesse l'87% di ottano e il 13% di eptano, anche se in realtà contiene molecole di lunghezze diverse. Un basso numero di ottani è quasi sempre più che sufficiente pressoché per tutti i motori. C'è bisogno di più ottani solo per pochissimo tempo, quando pigiamo sul pedale per accelerare. Ma molto prima che ci si preoccupasse degli ottani, o anche della benzina, un altro prodotto dominava incontrastato l'industria petrolifera di un tempo. Considerando la vasta gamma di prodotti, oltre alla benzina, che derivano dalla lavorazione del greggio, non c'è da meravigliarsi che si facciano tante storie sul prezzo al barile di questa sostanza viscida e puzzolente. Tutto iniziò nel 1859, quando un uomo di nome Edwin Drake trivellò il primo pozzo. Don Clutterbuck, ex presidente della AFG Energy. Il pozzo fu realizzato nel 1859 ed era profondo 20 metri. In meno di un anno, a Titusville, in Pennsylvania e nei dintorni, furono aperti più di 1500 pozzi. Esperimenti dell'epoca dimostrarono che l'ebollizione di piccole quantità di greggio risalito in superficie permetteva ai chimici di ottenere un nuovo prodotto, il cherosene, che si poteva ardere nelle lampade. A Titusville iniziò una frenetica corsa alla trivellazione perché Drake aveva dimostrato che c'era molto petrolio. Per accendere le lampade si cominciò a usare il più economico cherosene invece del grasso di balena. Il cherosene veniva separato dal resto del greggio in raffinerie rudimentali, comunemente chiamate distillerie. Nel procedimento di distillazione si faceva evaporare il petrolio. Poi i vapori del cherosene venivano raccolti e fatti condensare. Nel 1800 ancora non ci si interessava alla benzina, che bolle e si condensa prima del cherosene. Durante tutto il 1800 la raffinazione fu un lavoro semplice e anche redditizio. Chiunque poteva farlo. Poi un giorno il proprietario di una raffineria di Cleveland pensò a come poter battere la concorrenza. Il motto di John D. Rockefeller era: se non li puoi superare, comprali. Invece di incassare subito i profitti, reinvestì i soldi della sua azienda comprando altre raffinerie e alcune società che trasportavano il petrolio e il cherosene. Dal 1880 Rockefeller controllava il 90% della raffinazione americana. Ma come negli anni precedenti il cherosene aveva soppiantato del tutto il grasso di balena, così la nuova invenzione di Thomas Edison oscurò quasi completamente il commercio del cherosene. Fortunatamente per Rockefeller, coloro che nei garage stavano mettendo a punto le prime automobili scoprirono che per i motori a combustione interna era meglio la benzina. La benzina, un tempo considerata uno scarto, divenne la salvezza dell'industria petrolifera. Tra il 1900 e il 1910 in America il numero di auto salì improvvisamente da circa 10.000 a più di 500.000. E quasi tutte queste macchine andavano a benzina. Le compagnie petrolifere dovettero diventare più efficienti. Le torri di frazionamento, apparse per la prima volta nel 1908, migliorarono la distillazione, permettendo di separare la benzina e gli altri derivati del petrolio in maniera più veloce e accurata. Il nuovo procedimento trasformava solo il 15-20% di petrolio in benzina di scarsa qualità, con un numero di ottani tra i 20 e 30. Nemmeno le scoperte di petrolio in Texas all'inizio del 1900 riuscirono a soddisfare la domanda di carburante del 500.000 di auto in circolazione nel 1910. Le raffinerie andavano a gonfie vele, ma dovevano produrre più benzina. La soluzione arrivò da un laboratorio della Standard Oil dell'Indiana, una compagnia minore nata dopo che Teddy Roosevelt soppiantò il monopolio di Rockefeller. Nel 1911 lo scienziato William Burton risolse definitivamente il problema con un nuovo procedimento. Joseph Pratt, storico dell'energia dell'Università di Houston. Burton sottopose il petrolio, anziché a una semplice scissione, a una piroscissione, il cosiddetto cracking, per estrarre più benzina. Le molecole dell'idrocarburo, più lunghe di quelle della benzina, vengono raccolte nella torre di frazionamento e suddivise. In questo modo si creano più molecole di benzina a 6-10 atomi di carbonio. Per frammentare le catene più lunghe di idrocarburi, il cracking termico ha bisogno di 360 gradi centigradi e di una pressione superiore a quella atmosferica. Gli amministratori della Standard Oil, preoccupati, dissero: «Signor Burton, lei con una simile pressione farà sprofondare l'intero stato dell'Indiana nel lago Michigan». Fortunatamente per gli abitanti dell'Indiana, il cracking termico funzionava. Le catene più corte e frammentate erano inviate nella torre di frazionamento e poi raccolte. Con questo sistema, quasi la metà di un barile di petrolio diventava benzina. Anche il numero di ottani era più elevato, circa 70. Per non offrire ai consumatori due tipi diversi di benzina, quella di qualità migliore, sottoposta a cracking, venne mischiata con quella più scadente, cioè la benzina distillata. Si otteneva così un carburante con un numero di ottani tra 40 e 50. Tutte le industrie adottarono il cracking, sebbene fosse costoso ottenere un calore e una pressione così alti. Ma le raffinerie cercarono anche un modo per aumentare il numero di ottani della benzina distillata. Nel 1922 il chimico Thomas Midgley scoprì come farlo. Gli industriali avrebbero voluto un additivo che accelerasse la raffinazione e facesse ottenere più velocemente una benzina migliore. All'inizio degli anni 20, a un importante gruppo di ricercatori venne in mente l'idea di aggiungere alla benzina il piombo tetraetile. A partire dal 1925 l'uso del piombo come additivo portò i livelli di ottano della benzina da 10 a 15 punti in una scala da 0 a 50. Il piombo si univa alle molecole della benzina rendendole più resistenti alla combustione spontanea durante la compressione. La qualità del prodotto migliorò considerevolmente, ma intorno agli anni 20 ancora una volta si ripresentò il problema della quantità. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario dedicato alla storia della benzina. Quando nel 1990 il Parlamento americano ha approvato il Cleaner Act, la richiesta di una benzina meno inquinante è cresciuta in maniera esponenziale. Secondo Judith Murrad, vicepresidente Ambiente e Salute della Shell Oil Product, il compito più difficile per i raffinatori è quello di produrre dei carburanti puliti in grado di soddisfare le normative diverse per ogni stato. Abbiamo un tipo di benzina specifico per città come Los Angeles o Houston, dove l'inquinamento è molto elevato. Gli standard invece sono diversi per il Montana, uno stato americano in cui questo problema non è così sentito. Negli Stati Uniti ci sono circa 55 tipi differenti di benzina, ognuno con destinazioni diverse all'interno del paese. La benzina venduta nel Montana e in altre zone a basso tasso di inquinamento è più nociva, ma è meno costosa. Non è di qualità inferiore, semplicemente non è raffinata in modo tale da produrre una combustione più pulita. Oltre ai differenti standard, le raffinerie devono anche realizzare versioni estive e invernali dei diversi carburanti, perché le temperature esterne influenzano l'evaporazione della benzina e l'emissione di sostanze inquinanti. Il numero di tipologie differenti, l'elevatissimo costo di raffinazione da un lato e la necessità di contenere i prezzi dall'altro, portano a un sistema economico molto rigido. Una volta il funzionamento ininterrotto delle raffinerie richiedeva migliaia di operai. Oggi, grazie ai sistemi computerizzati, bastano 600 persone a turno. Le sofisticate apparecchiature che producono ogni giorno milioni di litri di benzina possono essere monitorate da un paio di sale di controllo. Gli altri lavoratori si spostano su biciclette e auto elettriche e fanno il resto del lavoro. Nonostante i costi e le difficoltà della produzione, il lungo percorso della benzina non è ancora concluso. C'è ancora da considerare la distribuzione, quell'imponente infrastruttura che da più di un secolo porta la benzina sul mercato. Prima dell'avvento delle autocisterne ad alta tecnologia, all'alba del XX secolo, la benzina era trasportata in botti di legno su carri trainati da cavalli. Dalle raffinerie giungeva direttamente ai negozi, dove era venduta in secchi. Per evitare la rischiosa esposizione della benzina a scintille accidentali e fiamme libere quando stava all'aperto, nel 1905 Sylvanus Bowser, di Fort Wayne, nell'Indiana, adattò una pompa dell'olio e la usò per la benzina. Nacquero così le prime stazioni di rifornimento, con una pompa sul ciglio della strada per consentire agli automobilisti di fare il pieno. Ma quando il numero di auto aumentò, questi punti di sosta si congestionarono. Fu così che a Pittsburgh nel 1913 venne aperta al pubblico la prima vera stazione di servizio di proprietà della Gulf Corporation. Dopo il 1920, taniche di metallo e speciali autocisterne resero la distribuzione ancora più sicura, anche se gli incendi provocati dalle perdite di carburante erano lo stesso molto frequenti. Le compagnie petrolifere usavano ormai da decenni un sistema di trasporto privo di pericoli, gli oleodotti. A partire dagli anni 30, anche i raffinatori adottarono lo stesso metodo. Leonard Mallett, vicepresidente della Texas Eastern Products Pipeline. Un oleodotto di 50 centimetri di diametro può trasportare circa 150.000 barili al giorno, l'equivalente di 750 autocisterne. Se venissero messe su strada, tutte queste autobotti costituirebbero un problema per la sicurezza e costerebbero anche moltissimo. Il prezzo della benzina si raddoppierebbe. L'oleodotto invece è il modo più sicuro ed efficiente per trasportare barili di carburante in tutti gli stati. Nel 1956 in America esistevano più di 58.000 chilometri di oleodotti. Al giorno d'oggi ce ne sono oltre 240.000. Le stazioni di pompaggio, una ogni 80 chilometri, fanno muovere il carburante. Un tempo gli operai separavano i vari prodotti nei condotti laterali usando dei piccoli stantuffi detti pig, cioè maiali. Si chiamano così perché nella conduttura emettono un suono simile a quello del verso di un suino. Oggi si usano per pulire le tubazioni. Gli ingegneri hanno messo a punto dei pig intelligenti, posizionando dei sofisticati sensori elettronici lungo le tubazioni. Non producono più il loro suono caratteristico, ma comunicano ai centri di controllo dove potrebbero formarsi delle crepe, permettendo di fare le dovute riparazioni prima che si verifichi un problema. Invece di interrompere il flusso per inserire stantuffi che separino i prodotti, adesso la benzina e gli altri componenti possono viaggiare nelle tubazioni senza sosta, grazie alle verifiche computerizzate eseguite da un piccolo gruppo di centri di controllo del flusso, che riducono al minimo la miscelazione dei materiali. Ancora Leonard Mallett. Questi congegni vengono chiamati impianti di dosatura, perché è a questo punto che il carburante viene suddiviso in benzina premium, benzina normale, gasolio, combustibile per aerei. Un po' di prodotto viene però miscelato, è il transmix. Si mette in appositi serbatoi e si vende a un mercato diverso. Una parte di questo transmix è nuovamente separato nelle raffinerie. Il resto viene venduto alle industrie che lo usano per far funzionare i loro macchinari. Ci sono due tipi di oleodotti. Il 95% delle condutture è pubblico, mentre il restante 5% è privato. Sono riservate, ad esempio, le tubazioni che vanno dalla raffineria della Chevron fino al suo terminal, dove le cisterne della compagnia portano la benzina alle proprie stazioni di servizio. L'altro 95% degli oleodotti, in particolar modo quelli lunghi che vanno da Houston fino all'Upper Midwest o alla costa orientale, appartiene invece a una rete pubblica. Molte compagnie, grazie agli oleodotti, risparmiano tempo. Questo sistema porta a un risultato molto interessante che le compagnie petrolifere non intendono svelare ai consumatori. Tutta la benzina è fondamentalmente uguale, o come direbbero gli industriali, è fungibile. Un modo colto per dire generica. Ancora Leonard Mallet. Se la Shell vende un barile di benzina a Houston, in Texas, non è detto che questo barile contenga necessariamente lo stesso carburante che la Shell ha prodotto a Chicago o in un'altra raffineria sul territorio americano. La richiesta iniziale da parte di chi trasporta la benzina è tuttavia sempre identica. E quindi una raffineria di Baytown, in Texas, può immettere nell'oleodotto un barile di carburante e, per esempio, nello stesso giorno, fare in modo che sia disponibile nel Midwest o nel Nord-Est. Senza questo sistema ci vorrebbero almeno 13 giorni per il trasporto. Nel sistema di oleodotti condivisi, la benzina senza piombo, normale o super di una compagnia è uguale alle altre. Le industrie petrolifere possono mettere il proprio marchio sul carburante solo alla fine, quando vengono aggiunti gli additivi chimici. In pratica, tutti gli additivi chimici usati fanno fondamentalmente le stesse cose, come aumentare gli ottani e diminuire le emissioni inquinanti. Quindi dipenderà dal reparto marketing convincere i consumatori che le loro auto potranno sviluppare la potenza di una Tigre o avranno un motore più pulito usando la marca giusta. Joseph Pratt, storico dell'energia dell'Università di Houston. Tanti anni fa processi di raffinazione distinti producevano una gamma di benzine diversificate. Con il passare del tempo, invece, dagli anni 60-70 a oggi, queste differenze non esistono quasi più, tanto che la maggior parte delle compagnie, sebbene dica che la propria benzina sia migliore rispetto a quelle della concorrenza, vende lo stesso identico prodotto. Gli additivi vengono immagazzinati nei terminal. Gli oleodotti depositano la benzina proveniente dalle raffinerie in serbatoi temporanei, capaci di contenere 190.000 litri ciascuno. Quando l'autobotte si avvicina per fare rifornimento, le pompe mandano la giusta quantità di carburante dai grandi serbatoi fino alla cisterna del camion. Gli additivi chimici, tenuti in serbatoi più piccoli, sono aggiunti in un secondo momento, in modo da controllare con precisione la miscela. Miguel Chao, direttore del terminal della Churon Products Company. Le nostre cisterne possono contenere circa 35.000 litri. Con il sistema che abbiamo qui, le pompe riescono a riempire un autobotte in 15 minuti circa. Questo tempo viene calcolato da quando l'autista entra nella zona di rifornimento a quando se ne va. Da lì gli autisti vanno alle stazioni di servizio. Ogni autocisterna è divisa in 4 scompartimenti per contenere i diversi carburanti che saranno poi scaricati nei serbatoi sotterranei. Questo sistema molto efficiente aiuta a mantenere basso il prezzo della benzina. Se vorrà rimanere il carburante di elezione, la benzina dovrà però competere con i prodotti alternativi più puliti che stanno emergendo. Chi saranno in futuro i rivali della benzina? Oggi si studia come rendere la benzina meno inquinante rispetto a molti anni fa. Le formule speciali dei carburanti con molecole rimodellate e le marmitte catalitiche montate oggi sulle automobili aiutano le macchine a viaggiare in modo più pulito. Ogni litro di gas emesso rilascia comunque nell'atmosfera circa 600 grammi di carbonio e altre sostanze inquinanti, la maggior parte invisibili come l'anidride carbonica. I ricercatori provano senza sosta formule diverse di benzina nei motori sottoposti a varie condizioni. Vogliono trovare la combinazione migliore di prestazione, affidabilità e inquinamento ridotto. La benzina, oltre ad essere resa più pulita, può essere mischiata ad altre sostanze per limitare l'inquinamento. Per esempio, mescolandola con l'etanolo e l'alcol che viene estratto da alcuni cereali o da altre colture, si riducono leggermente le emissioni nocive e si diminuisce il consumo globale di carburante. Nel Midwest le auto sono già alimentate da miscele con il 10-15% di etanolo. La benzina però non è l'unico combustibile a cui si possono aggiungere altri prodotti perché diventi meno inquinante. Il gasolio, per esempio, viene combinato con l'ecodiesel per ottenere dei risultati molto simili. Un'alternativa che non richiederebbe alcuna infrastruttura è l'energia solare. È già in grado di far funzionare veicoli sperimentali leggeri e in futuro potrebbe fornire parte dell'energia di un'auto. Ci vorrà del tempo però prima che i ricercatori riescano ad ottenere dalle celle solari potenza sufficiente ad alimentare mezzi più pesanti. I motori elettrici o quelli basati sulla pila a combustione utilizzano infatti ancora la benzina. Questo carburante così comune resterà ancora a lungo con noi. La benzina ha fatto molta strada negli ultimi 100 anni. E a quanto pare ne farà ancora tanta. Joseph Pratt, storico dell'energia dell'Università di Houston. La benzina è l'elemento cardine della nostra economia, la forza motrice fondamentale dell'attuale sistema di trasporto. Ciò che accadrà in futuro dipenderà principalmente dal continuo sviluppo tecnologico e dai meccanismi di concorrenza. La corsa della benzina prosegue. Diventerà sempre più pulita. In ogni caso, sembra che altri carburanti, fra non molto, saranno in grado di superare i loro limiti tecnici e la sorpasseranno. Tuttavia, al momento, la benzina continua ancora a regnare sovrana nel mondo. Vi segnaliamo che la versione integrale di questo documentario andrà in onda su History Channel il 21 gennaio alle 18 con il titolo Benzina, carburante del XX secolo. Un ringraziamento in redazione a Daniele Casagrande. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.